inutile, vado così fra pietre e nuvole e vedo piangere alberi di nebbia intorno a me. Oggi mi par di non esistere senza di te. Yeah.